qualche secondo di sigla on Broadway, la via del teatro in più per permettere il collegamento telefonico per questa diretta dedicata in scena alla stagione, 8ª edizione di Agorà, per domani sabato 13 aprile al teatro Alice Zeppilli a Pieve di Cento. Sapete bene, no, che Agorà ha uno sguardo sul territorio di pianura per la nostra città, con il valore importantissimo della rassegna teatrale che seguiamo. Pietro Babina è nuovamente in diretta telefonica con noi, ormai è co-conduttore, e quindi diamo il buongiorno al mattiniero Pietro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ed è un grande piacere oltretutto, perché fare conversazione mattutina, insomma, con questi contenuti certamente dà un'importanza e un'attenzione a una coppia in questo caso, Sole e Baleno. Sono una coppia, da quello che ho in anticipazione per quanto riguarda la presentazione di domani, preciso, alle ore 21. Sono una coppia, impegnati, sono molto innamorati, ma sono anche molto innamorati del loro impegno nel sociale, e troviamo purtroppo anche qualcosa che non va in seguito a dei disordini, delle situazioni che poi in maniera discutibile incolperanno questi due ragazzi. Non voglio anticipare troppo i contenuti, ma partirei, per poi arrivare alla trama dello spettacolo, innanzitutto con Pietro al perché di questa scelta. A te la parola, Pietro. Ma i perché di questa scelta sono svariati. Sicuramente quello principale è che, siccome si parte da una storia vera, dalla accaduta realmente negli anni 90, alla fine degli anni 90, nel 98 precisamente, e che è una storia che è stata abbastanza affossata per motivi abbastanza logici, visti con il senno di poi, perché poi è arrivata a Genova, il G8, il famoso G8 di Genova. La Mattanza, che, esatto, che ha fatto quella che ha spianato tutta la situazione, diciamo così, di contestazioni varie, di vario tipo. Quindi questi erano i prodromi di una politica che voleva cominciare a fare, come dire, a far capire che un certo tipo di contestazione sarebbe stata bastonata forte. Sarebbe stata anzi quasi proprio eliminata dal discorso politico. È così. È stato, non sono riusciti a farlo totalmente, ma ci è andata una bella botta, diciamo. Certo. Allora, i ragazzi in questione, lei una ragazza argentina molto impegnata nel sociale, Baleno invece è un anarchico, sono impegnati nelle contestazioni per quello che sta succedendo all'ambiente, e purtroppo però in seguito a disordini verranno incolpati ingiustamente e verranno anche fermati, se non ricordo male. Più che fermati, diciamo arrestati, ecco. Sì. Loro furono arrestati con un'accusa molto grave di associazione sovversiva, e quindi posti agli arresti in isolamento, e questo poi ha portato alla tragedia che ne è seguita, perché poi ha condotto prima Baleno al suicidio entro un mese, e poi dopo lei lo ha seguito, e questo li ha fatti diventare un po' due simboli all'epoca di un movimento, di una repressione un po', diciamo così, smisurata nei confronti di ragazzi che comunque protestavano senza fare cose eclatanti. Ma poi in contemporanea c'era tutta la questione dei Notav, a cui sicuramente tutti i movimenti anarchici di un certo tipo erano legati, e quindi hanno individuato in loro due capri espiatori, perché poi a seguito del processo nel 2001, guarda caso, proprio sono stati assolti totalmente da tutti i reati che gli erano stati imputati. Lì c'è stata una costruzione, e insomma, comunque lo spettacolo voleva riportare alla luce questa storia, ma non facendo un lavoro cronachistico, ma lavorando più sulla logica della canzone anarchica, quindi una cosa più poetica e più anche emozionale, esatto, emozionale, meno documentaristica. Sì, intanto aggiungo che Sole Baleno, scusa se ti interrompo, è stato tre volte vincitore del premio UBU ed è considerato uno dei riconoscimenti, come ben sapete, più importanti di teatro in Italia. Quindi è uno spettacolo che già ha girato. No, me lo sono inventato. Non te lo sei inventato, forse nelle informazioni confuse col mio passato. Io questo è uno spettacolo che ho appena debuttato. Nella scheda c'è scritto che ho vinto più volte e sono solo io. Okay. Lo spettacolo ha appena debuttato. Ti ho fatto diventare un millantatore. No, non è così. Sì, appena debuttato, chissà, magari, speriamo, ma questo è troppo presto, certo, per dirlo. È un po' prestino, esatto. Sì, appena debuttato a Ravenna la settimana scorsa e siamo qui per la prima volta e poi speriamo di tornare anche magari più vicino a Bologna. E comunque a Ravenna è andato ultra bene, lo devo proprio dire, sono molto contento di questo lavoro. Con me in scena ci sono Alberto Fiori, che è il musicista che ha scritto tutte le musiche, perché va detto, questa è un'opera musicale che ho costruito, diciamo così, nella drammaturgia sulla falsa riga dell'opera da tre soldi, e quindi c'è anche tutta la scansione musicale di tutte le canzoni come c'è nell'opera da tre soldi, che sono state scritte ad hoc e con la musica appunto di Alberto Fiori, i testi miei, va bene, che ho scritto tutto il testo, e in scena con noi c'è Serena Abrami, che un'interprete straordinaria, che invito tutti a venire a vedere, certo, perché è veramente brava, una scoperta non mia, sì, personalmente è una scoperta, però è una persona che ha già un suo percorso, ma che fa per la prima volta un lavoro teatrale, devo dire, con una capacità fuori del comune. Sì, allora anche io ho portato qualcosa come colonna sonora, è una parte di rivisitazione anche elettronica, da quello che ho capito, no? Sì. Quindi ho aggiunto qualche glitch a queste sonorità dei Minotaur Shock come primo stacco musicale per la nostra conversazione con Pietro Babina. Puoi restare 5-3 minuti, insomma, poi dopo rientriamo e parliamo, oltre che del contenuto, anche del messaggio che arriva e come arriva al pubblico per domani con l'ottava stagione di Agora, sabato 13 aprile alle ore 21 al Teatro Alice Zeppilli, siamo a Pieve di Cento. E a tra poco allora, Pietro. A tra poco. preso accordi sotto banco, fuori diretta e in caso di esito positivo per il refuso che ho portato nella presentazione di Sole e Baleno. Questi redattori prezzolati, Pietro, facilmente corrompibili per lo spettacolo. Beh, comunque, no, non credo che tu abbia il potere tu da solo di ottenere quel risultato. Posso portare una spinta assolutamente di entusiasmo, quello sì. Ecco, di entusiasmo è anche, come dire, e di condivisione per quanto riguarda così il messaggio che porta Sole e Baleno. E allora, dopo aver parlato di struttura, aver parlato anche di un aspetto di palcoscenico e dopo le sonorità di Minotaur Shock tra il post rock e il contemporaneo nell'elettronica, l'importanza della musica nello spettacolo Sole e Baleno, Pietro? La musica è fondamentale, perché, come dicevo, si può chiamare un'opera musicale, di teatro musicale, come era l'opera da Tressoldi, che punteggia in modo molto, molto sostanzioso tutto il lavoro, e con oltre quasi 18 brani, tutti originali, che ovviamente sono brani drammaturgici, quindi sono canzoni con un testo che ha dei riferimenti ovviamente all'interno dello sviluppo drammaturgico della storia, e quindi a volte sono emblematici di una situazione, o a volte portano avanti la narrazione dicendo alcune cose, e sono tanti, sono molto complessi. E poi la cosa divertente per chi dovrà vedere è che, siccome tutti i personaggi sono fatti solo da me e da Serena Abrami, interpretati, che facciamo tutte le voci diverse usando anche dei multi effetti per la voce, anche le canzoni devono seguire a seconda del personaggio che canta, quindi sono tutte cantate in modi anche abbastanza stranianti. Per quanto Alberto Fiore ha fatto delle musiche molto complesse, anche se elettroniche, per niente semplici da cantare, quindi il lavoro è abbastanza sostanzioso anche da questo punto di vista. Allora, arriviamo a quello che verrà portato al pubblico dal punto di vista del messaggio, appunto, Pietro. Il messaggio è molto chiaro, qui si tratta sempre di questo, di persone che cercano, se vuoi, a loro modo e a volte non sempre condivisibili, almeno dalla grande massa, di lavorare e di combattere per dei valori fondamentali, che in quel caso erano la difesa della libertà delle persone più povere, come è stato fatto tante volte, quindi sull'occupazione delle case, ma anche sulla difesa dell'ambiente, che oggi si rivela essere una battaglia che fanno più o meno tutti, ma che all'epoca era vista come una battaglia un po' di nicchia. Certo. E che alla fine, per seguire così tenacemente i loro intenti, vengono da un sistema vessati, arrestati e molto pesantemente puniti, al di là di quello che è necessario, e cosa altra che oggi vediamo in continuazione, e che questa volta ha portato ad un esito tragico, perché loro, per sfuggire, diciamo così, a questo tipo di violenza, si sono suicidati. Io ho sempre detto che questa storia mette insieme la parabola di Sacco e Vanzetti e quella di Giulietta Romeo, per questo è così anche drammaturgicamente stimolante da questo punto di vista, perché tiene dentro queste due grandi storie che sappiamo bene continuano a colpirci, a tenerci collegati, diciamo così. Certo. Perché sia Giulietta e Romeo si suicidano, anche se quasi involontariamente, perché il loro amore viene impedito da un sistema, diciamo così, di contrasti politici tra due famiglie. Sacco e Vanzetti vengono uccisi perché accusati, molto probabilmente anche ingiustamente, ma presi come capri espiatori per vessare tutti dei movimenti che all'epoca lottavano per i diritti dei lavoratori, e non solo. E un'altra denuncia importante secondo me è questo aspetto di come si arriva a tutto ciò, e per, hai citato la grande massa, è un arrivare anestetizzandosi, anestetizzandola, cioè sì, ci si arriva, esatto, come la famosa rana che si trova nell'acqua calda e dice come sto bene, e non si rende conto che pian piano sta per bollire, a essere bollita, hai capito? Esatto, e vediamo appunto, infatti c'è tutto un lavoro sulla comunicazione, perché uno dei personaggi chiave è una giornalista che rappresenta emblematicamente tutto un modo di usare la comunicazione per rendere, come dire, possibile al sistema di fare determinate azioni senza che appunto il pubblico ne colga, diciamo così, l'ingiustizia, se non sì, alla fine. Ecco, quando ormai è troppo tardi. Ecco. Sì, e citando sempre Bertolt Brecht, all'inizio vennero a prendere gli zingari, ma mi erano fastidiosi, poi presero i comunisti e io non lo ero, presero gli ebrei e mi stavano antipatici. Quando vennero a prendere me non c'era più nessuno a gridare, protestare per impedire questo arresto. E visto che abbiamo citato l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, dove c'è un'importanza fondamentale per Sole e Baleno, oltre che ho apprezzato tantissimo, io sono un shakespeariano, per cui la citazione a Romeo e Giulietta è indubbiamente un valore aggiunto per questo spettacolo, che sarà sabato 13 aprile ovviamente 2024, cioè domani alle ore 21, Teatro Alice Zeppilli, per la precisione in Piazza Andrea Costa 17 a Pieve di Cento, per l'ottava edizione di Agorà. Pietro, io ti ringrazio tantissimo. Se c'è un secondo, ci tengo a dire una micro cosa, che è uno spettacolo veramente che abbiamo constatato essere veramente orizzontale. Quindi se qualcuno sta pensando sarà adatto a me, vi dico subito sì. Sì, sì, hai capito? Sì. Questo è un messaggio ulteriore per il pubblico. Io rinnovo il meglio, come ti ho detto, eliminando il refuso di precedente portata, ti auguro il meglio e ci sentiamo indubbiamente per altre conversazioni dedicate bene, al teatro nella okay, rubrica che... Il Mostra. Grazie. Grazie mille. Saluti ciao tutti. Pietro. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Jazz crew was fat. MDB gave dat and said, scat. I said, but I just arrived. He said, no, no, get on the mic and talk, jive. One, two, and you don't stop. Urbanator got the flavor influenced by post-bop greats. Yo, yo, I can swing this. It tastes like Thelonious Monk, Charles Mingus, KD, and Grant Green. The kind of vibe the average rapper can't capture or adapt to when they rap to uninspired jazz tracks that sound retarded. We come original with notes and prose composed from scratch. This tune is a fresh batch. A or B, what's more better, G? We got the recipe for hot jazz biscuits. Hot jazz biscuits. Father, who art Blakey? Hollow it be the beat. I meditate from my seat in a treetop. What's the true meaning of Skidley Bebop? Apply to hip-hop. Is it defined by reaching or jazzomatazz? As I lounge on a hot jazz track, or rather a biscuit with butter. I'm cool like that, solid, don't stutter. Face on the grand live band with the shades and the fly tans. To the left, stashes and goatees, macking like OGs. Feel a sustain from the low-key slow breeze through your brain as you close your eyes like the closing doors on the A-train. My lyrics is gravy for hot jazz biscuits. Hot jazz biscuits. Hot jazz biscuits. face on the brim. Live band with the shades and the fly tans to the left, stashes and goatees. Macking like OGs, feel the sustain from the low key slow breeze. Through your brain, as you close your eyes like the closing doors on the A train. My lyrics is gravy. Hot jazz, biscuits. Hot jazz, biscuits. Hot jazz, biscuits. Gianluca per la segnalazione, verrà riportata ai nostri tecnici. Buongiorno a te. Intanto, già davanti allo stadio il segnale sparisce. Mannaggia, userò la app, ma è un vero peccato. Tra l'altro, fino ad Imola in FM si sente bene. Buona giornata, Gianluca. Grazie per questa segnalazione riportata al 333-180-9494. Stiamo ascoltando il violinista, beh certo in questo caso accompagnato ad esempio da Lenny White alla batteria e alle percussioni. Lui è Michael Urbaniak, la formazione Urbanator. Oltretutto il featuring del brano precedente con il trombettista Tom Brown. Quindi ricordo per domani, sabato 13 aprile, Teatro Alice Zeppilli, Agora ottava stagione, a Pieve di Cento, Sole e Baleno, Pietro Babina. Pensa Gianluca che quando è arrivato il tuo messaggio a proposito di segnale stavo portando in frequenza un brano per accompagnarci alla pubblicità di Isabel Antena, che appunto è intitolato Antena. Anzi, lo mettiamo, magari non so, aiuta, che sia di buon auspicio. Tra pochissimo di nuovo in diretta per la seconda parte della rubrica In Scena. Buon ascolto, a dopo la pubblicità. La chanson est pour toi. Antenne, un avion qui s'envole et puis passe. Partir sans aucun problème. Autour du monde, la chance la baraque. Alpha et Omega. Ma chanson est pour toi. Ma chanson est pour toi.